una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che qua non esiste un vizio. Siamo di una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Una vita sotto Darwin, ritrarmi, ritirarmi al bar, mille birre stanno finendo i risparmi. Cerco la tregua, la soluzione più bastarda, fuggire prima del tre, guarda chi se ne frega. A 13 anni ero una mezza sega, ad 8 smanettavo sopra il Commodore 64, gli altri bambini in strada, bande disastrate. Ancora oggi sto a scazzare sopra bande disegnate. A scuola ero un alieno dei molti disadattati, la maestra preoccupata raccontava i miei incontri avvicinati. Scambiavo la destra con la sinistra in prima, seduto in primo banco, e non riuscivo mai a giocare se mi trovavo con idioti a fianco. Colto e tonto, un genio ingenuo senza pari. Cerchi di farmi nuovi amici dopo che mi disgregarono pure quelli immaginari. Perso nell'ambiente circostante, un cervello a sé stante. Gli altri volevano uccidermi, ci sono riusciti in parte. I bambini sono demoni, veri innocenti al rogo, a brogo. Infatti fanno al tempo cui mi hanno portato la nevrosi per il loro infuoco. Ma sono strane le mie azioni ed il mio modo di intendere le cose, di girarmele in testa quando arrivo a guardare metri sotto la finestra. Sto in una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che qua non esiste un vizio. Siamo di una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Senilità sul viso, dispersi nel nido, città che ci ha ucciso. Invidia, invidio, l'ansia, ha preso il presidio. Urla zitta, affogano, quattro atmosfere di schiuma. Hanno sbronzato le speranze, ora sconfitta l'alcol bruciano. Voglia in penombra, servi della routine. Ti servi su che G, la fantasia a mille, media energia che sgombra. Ora in TV c'è in onda, la mia gioventù alle soglie della tomba. Stavo vivendo d'arte vissi, d'amor perduto. Sto risalendo, ma allo specchio c'è uno sconosciuto. Un fallimento in più, torna nei momenti clou. Tocchi di colpa, non avevo il coraggio di chiedere aiuto. La mia coscienza non riconosce chi siete, la mia febbre a sete. Ma non che voi siate in salute, fugo responsabilità, uso mia abilità. Ultima sigaretta ed ultime stronzate. La mia esistenza è da inetto e senza forte in difetto. Tanta noia che vivo, letta gioia che aspetto. Aggressività latente, ho perso la volontà. Agente nell'aldilà per sempre. Personalità perdente per voi, costretti nell'ambiente, distesi su un sofà sotto una foto di Freud. La vostra vita irregolare mentre pulsa dentro corpi da gargoyle. Un regno di competizione onnivora, ogni belva nella selva ed è molare. Il segno incisivo, canino e morale del destino scivola fino al giorno in cui l'ordigno arriverà, soffocando i suoi creatori nella propria scia. Sarà il ritorno ad antiche nebulose, la fine del futuro che è stato che sia, la morte delle medicine e della malattia. Sto mondo una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che qua non esiste un vizio. Siamo di una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che, forse ho capito che. Siamo di una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che qua non esiste un vizio. Siamo di una gabbia, pappagalli senza più colori, castelli di sabbia, buonanotte sognatori, segnati per sempre, schierati secondo ruoli. Forse ho capito che la vita è un suicidio.